Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9. Come ti sbagli, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Allora, vi ricordo che siamo a dicembre, è uscita la nuova scarceranda anno 2018, quindi vi esorto a cercare in giro per la città le iniziative che la promuovono, oppure venire qua a Via dei Volsci a conoscerci e a cattarvi la nuova scarceranda. Vi ricordo che come ogni anno è possibile inviare la scarceranda se avete un amico o un conoscente recluso e privato della propria libertà personale. Basta che ci segnalate l'istituto penitenziario dove è stato rinchiuso, il nome e il cognome, la scarceranda verrà inviata. Non si può scrivere nulla sulla scarceranda, non ci può essere nessun riferimento, quindi sarete voi che dovrete avvisarlo che gli avete mandato la scarceranda. Noi ci limiteremo a inviarla e poi voi dovrete segnalargli che gli avete fatto questo piccolo dono. Vi ricordo pure che ci sta in giro la campagna Riaccendi il Nasone, perché hanno chiuso i nasoni in giro per la città, quindi bisogna mandare sulla pagina della simpatica Virginia Raggi oppure sul presidente del vostro municipio una foto di voi vicino a un nasone con scritto il tag Riapri Riaccendi il Nasone, oppure potete scrivere una rima e mandarla. Insomma, ci sta un evento su Faccia Libro, ma insomma vi ricordo che solamente l'1% dell'acqua viene utilizzata dai nasoni, è stata privata la nostra città che è famosa per le fontanelle. Io ricordo sempre che mia figlia per esempio mi chiede in continuazione l'acqua, che va al nasone, è chiuso, non ci sta l'acqua, e poi mi batte la bottiglietta, l'infame bottiglietta plastica a go go, insomma, che ve lo dico a fa. Quindi la campagna del forum per i movimenti dell'acqua, riaccendiamo il nasone, partecipiamo tutti. Allora Luca, l'avevamo annunciato, loro sono qui pronti, abbiamo in studio gli Scasso. Ciao ragazzi, salve, buongiorno, come state? Buonasera. Ce l'hanno fatta nonostante il traffico di Roma di questi giorni. Nonostante la pioggia e il traffico, eccoci qui, felicissimi di esserci. Non era facile. No, infatti ce l'avete fatta, qua bastano due gocce, come avete giustamente scritto, e la città s'allaga. E mamma Roma s'affoga, non scherzi, e mamma Roma s'affoga. Sentite, allora voi state in giro in questo periodo in un'attività frenetica, in giro per le radio, concerti, perché sta uscendo il vostro nuovo lavoro, la vostra terza fatica. Bene, sì, ci siamo, è arrivato il momento del nuovo album, Il Paese degli Orrori, è uscito da poco il nostro nuovo singolo e fa parte dell'album, cioè Peter Pan. Possiamo dire che siamo contentissimi, oramai. Non vediamo l'ora proprio di farvelo sentire, perché è venuta una bomba atomica. Esatto, cioè poi comunque sta viaggiando tantissimo, siamo proprio contenti, ha sballato le 12.000 visualizzazioni insieme a Baghera, quindi proprio un tripudio per voi noi. Voi ci avete regalato per la pagina Facebook di Attica Blues un video inedito che noi abbiamo pubblicato di Baghera insieme agli Skatalites, perché avete aperto quest'anno il concerto degli Skatalites. Esatto, quest'anno sono successe un po' di cose molto molto importanti per noi, cioè alcune collaborazioni che quest'anno ci hanno proprio fatto, come dire, schizzare tra gioia e pieno delirio. Ecco. Diciamo che stavo pensando proprio ieri, se dovessimo fare un resoconto dell'anno e farci gli auguri per l'anno prossimo, insomma, ci metterei la firma per rifare l'anno come questo. Senti, ma c'avete un aneddoto sugli Skatalites? Abbiamo un aneddoto. Raccontateci. Quanti ne volete? E basta uno, vai. Guarda, allora, è andata così. Noi abbiamo incontrato gli Skatalites qualche giorno prima, o una parte parte di loro qualche giorno prima del concerto, e Domenico insieme a Ken, insomma alcuni di loro, siamo stati un po' in giro per Roma, abbiamo portato loro facendo da ciceroni. Esatto, e questa già è questa, potete immaginare insomma che il faccia da ciceroni a che potete capire insomma la contentezza esatto che c'è sta dietro questo. Poi c'è stata una cena importantissima la sera prima del concerto che noi abbiamo fatto nella Scasso House, cioè la casa di Matteo, che è praticamente casa Scasso House, la casa mia quando gli pare. Della famiglia. Sì, è così proprio. E niente, c'è stata questa che è stata, abbiamo suonato, siamo stati insieme, abbiamo mangiato, bevuto, è stata una nottata incredibile. Poi li abbiamo riaccompagnati e poi il giorno dopo ci abbiamo suonato insieme, un'emozione unica di condividere quel palco con loro. Nel frattempo abbiamo fatto interviste, c'è stata un'intervista fatta con Ken bellissima, cioè è stato veramente un bellissimo periodo. E loro poi subito dopo il concerto sono ripartiti per la tournée, avevano comunque, erano in tournée in Europa. Una settimana dopo noi eravamo chiusi nella Scasso House appunto per la conclusione dell'album nuovo, abbiamo deciso di stare una settimana tutti quanti insieme, abbiamo montato tutta la strumentazione, fatto una pre-registrazione del nuovo album che poi ci serviva per entrare in studio. E un paio di settimane dopo l'incontro con loro, così sarà stato questo, ci è arrivata una telefonata mentre noi stavamo suonando ed era Sparrow, cioè il batterista degli Scatalites, che ci diceva: Scasso Family, che dite? Che salutiamo. Che Scasso Family, che dite? Tutto a posto, sono qua a Roma, sono ritornato, volevo sapere se c'eravate perché facciamo una cena, un incontro. Noi proprio siamo svenuti, abbiamo detto guarda, siamo qui, è venuto lui, poi ci ha raggiunto, è venuto con un tassi ed è stato lì a cena con noi, ha sentito gran parte dei pezzi, ci ha consigliato, ha dato dei grossi consigli per quanto riguarda la ritmica, e ci ha un po' spiegato la sua visione, no? Quel soul unico, cioè quel rhythm che proprio è Jamaican style original, che esce da quell'impronta e che lo riconosceresti tra centinaia di batteristi che suonano tutti insieme. Dice: e lui è Sparrow, cioè, ed è incredibile. Perché ci ha lasciato questa cosa che si sente, mo non vorrei dire insomma, però diciamo che è una delle tante contaminazioni che si sono avvertite sull'album. C'è stato un punto in cui quella contaminazione, quel bisogno di quel Charlie a un certo punto comincia a parlare in una certa maniera, e questo lo senti sul disco ed è proprio un cambiamento sostanziale, anche perché poi c'era una ricerca musicale dall'album prima che è Tra Cielo e Utopia, cioè la capacità comunque di confrontarti anche con altri stili, il jazz, cioè mettere le mani mettere in pasta ciò che è il tuo genere, cioè lo ska, però rendendolo comunque contaminato attraverso molte sfaccettature musicali. Qui invece si è molto più diretti, molto più dentro, si entra proprio molto più nello specifico di quel genere, e c'è stato un gusto proprio nel farlo attraverso la persona, cioè questo tipo di contaminazione attraverso queste persone, che è stato strepitoso. Perché ecco, insomma, sì, gli Scatalites è vero, non sono più tutti quanti gli originali, però per andare a suonare nella formazione degli Scatalites, che va in giro per il mondo, insomma, ci vuole un certo tocco, e tutti quanti quei musicisti lì che stanno lì in quella formazione, ognuno porta il suo apporto a creare di nuovo quel sound che sembra quello originale proprio degli Scatalites lo stesso, e quindi è stato proprio importante per noi, sì. Anch'io ho avuto l'occasione di conoscerli, era una serata al Villaggio Globale, noi eravamo col Sound System, col Satta Massagana all'aperto, era una bella serata mi pare di giugno, e quella notte arrivò la notizia che era morto Dennis Emanuel Brown, e quindi noi facemmo tutta la selezione di Dennis Brown, mi ricordo che Pilo corse a Trastevere dove c'è a casa a prendere tutti i dischi di Dennis Brown, e loro vennero in console a omaggiare appunto Dennis Brown. La formazione era diversa, era non mi ricordo, parliamo del 98. Sì, ma loro comunque ruotano, ci sono elementi che sono fissi, cioè lei è la cantante che ormai praticamente è diventata diciamo l'unica voce che ci hanno fissa, perché dopo che è morto anche il sassofonista Dorin, infatti la formazione Dorin, esatto. Nella formazione originale penso non sia rimasto più nessuno. No. In realtà sì ci sono, cioè sì, Dorin che è formazione originale, Sparrow, lo stesso Sparrow che è formazione originaria. Però mi pare è subentrato poco dopo. Lights, parliamo degli anni 60, sì, no, mi sembra C'è Ken, per esempio, che è il tastierista, che sono oltre 20 anni, quasi 30 anni, che suona con loro, quindi praticamente è come se fosse stato adottato dalla formazione Diciamo pure che formazione originale è un concetto lato, perché la formazione di Scatalez è sempre stata una formazione dinamica. Sentite, comunque l'avete nominata, noi originalmente avevamo pensato di aprire con Baghera, ma avete nominato Peter Pan, quindi direi di sentircelo il vostro singolo. Bene. Che apre l'album, questo è Peter Pan dal prossimo album degli Scasso, che si chiamerà l'album Il Paese degli Orrori. Peter Pan. Da Peter Pan mi vesto. Da Peter Pan mi vesto. Mi vesto e rivesto i panni di un Peter Pan onesto, che raccoglie danni. Forse è troppo cresciuto i malanni, ma allora sei scemo ancora. Da Peter Pan mi vesto. Senti, voi tra l'altro avete già fatto uscire due video in anteprima di quest'album. Esatto, e sono Baghera e Peter Pan, appunto. Peter Pan, infatti. Tra l'altro tutti e due molto carini, andateveli a vedere sul tubo, insomma. Grande, c'è stato molto divertimento, diciamocelo. Allora, l'album uscirà, dicevate, a febbraio? L'album uscirà verso fine febbraio, comunicheremo a breve la data di uscita, sarà poi proprio una festa, perché stiamo in realtà organizzando un super mega festone. A Roma. Non possiamo svelare ancora niente, perché già mi hanno guardato male, non so se hai notato. Di tutti i brani inediti, sì? Allora, ci sono, l'album sarà composto da 12 brani, di cui 10 inediti e 2 cover rivisitate. Ok, noi vediamo di chi sono, allora no, lasciamo. Senti, però invece vi chiediamo di farci sentire un brano in anteprima, insomma, questo è il singolo, Baghera ce l'avete fatto sentire, c'è il video, fateci sentire un brano in anteprima. E come no, noi ve lo facciamo sentire e avevamo pensato di portare qui un paio di cosine, come dire, tra cui Le vie dell'obbedienza, che è una delle tracce dell'album, e vorremmo anche, come dire, spendere due paroline su questa canzone, il perché l'abbiamo portata, perché proprio questa, insomma, a Radio Onda Rossa, perché vai. Oggi è Radio Onda Rossa. Allora vorremmo innanzitutto trasportarvi un momento così per farvi capire di che cosa parla questa canzone, perché l'album ci teniamo, essendo il paese degli orrori, descrive un po', no, gli orrori, cioè quello che sta succedendo in questo momento, un momento. Ma degli errori o degli orrori? Orrori. Insomma, anche degli errori che diventano orrori. Insomma, se poi il paese, evidentemente. È chiaro, insomma, un'analisi sul nostro paese, su quello che sta succedendo in questo momento. E tra le tante cose che vediamo, insomma, vediamo il cupore della politica, vediamo, volevamo parlare di questo, volevamo parlare non di immigrazione ma di accoglienza, volevamo parlare di quelle che sono le problematiche vere secondo noi, e appunto le vie dell'obbedienza era un, come dire, un modo per esprimere ciò che sta succedendo. Noi abbiamo scelto un concept album, tutta una serie di fiabe e di favole per raccontare questo nostro paese, fiabe a cui noi siamo legati, appunto Pantera, le pantere del Libro della Giungla, e quindi Baghera, Peter Pan, troveremo Pollicino, troveremo la chiave, insomma molti riferimenti a molte fiabe, e questo è stato molto bello. C'è una canzone il cui testo è stato scritto negli anni 70. Esatto, c'è una canzone che è stato scritto da Giulio Latini, che risale al 1974 se non erro, ed è un'analisi sociale di chi sta scrivendo, sostanzialmente chi scrive, cioè Giulio fa un'analisi della società che ha intorno, era un periodo molto, cioè, politicamente intenso, no? Ed è bellissima questa analisi, poi soprattutto generazionale, immagino che sia ancora attuale, e quando noi l'abbiamo trovato pochissimo tempo fa, un anno fa, quando è capitato per le nostre mani, questo testo ci è esploso tra le mani, perché era una cosa di un attuale, e poi averlo collegato al 1974 ci sembrava assurdo, quindi ho detto via, apertiamolo, arrangiamolo e portiamolo. Sì, ma quando questa notte finirà, che è una poesia, insomma, tra ecco, questo album sono un po' tra le fiabe e la poesia, quello che abbiamo cercato di ottenere. E ritorno alle vie dell'obbedienza, è un'analisi cupa, è quello che più racchiude quello che c'è di cupo nel nostro paese. Parla di un nostro fratello che si chiama Zamir, molto probabilmente l'ho incontrato proprio un tempo brevissimo, molto veloce, un episodio che è veloce, da cui poi è stata tratta la canzone. Cioè, questo ragazzo stava sull'autobus, è arrivato a Roma da circa due mesi e si stava dirigendo verso la Germania, stava da un suo amico a casa e stava raggiungendo un altro sull'auto, rideva con questo suo amico sull'autobus, viene attaccato da un signore evidentemente disturbato dalle risate di questo ragazzo, e da lì a poco diventa un macello, diventa una cosa a cui sarebbe indescrivibile, eppure brutto, insomma, da dire, ma si passa alla violenza subito, ed è chiaro che il messaggio che volevano dare a questo ragazzo era un messaggio di razzismo, cioè comunque si stava accusando perché era di colore, perché non ce lo volevano, e questo poi ha scatenato anche le reazioni di altre persone su quell'autobus. Alla fine lo hanno buttato giù dall'autobus, sono scesi e l'hanno pistato. In tutto questo non è che c'era gente, è assurdo che tutti si, un auto pieno, c'ero io per esempio su quell'autobus, che dall'inizio di questa storia non mi sono stato zitto e non mi sarò stato zitto, ma neanche dopo. Poi vi diciamo com'è finita e poi com'è andata a finire, finisce con un arresto, il mio e di quello dell'altro ragazzo. Il mio è interruzione di servizio pubblico, perché ho interrotto un servizio pubblico davanti a una marea di gente immobile di fronte a questo soppruso enorme, e dall'altra c'era la rabbia assoluta. Ne esce fuori un arresto, Samir non sappiamo poi che fine ha fatto, purtroppo, oltre le botte sicuramente è stato arrestato, e poi non abbiamo fatto ricerche per capire dove fosse andato a finire, non è stato più possibile. Poi io in qualche maniera me la so cavata, però quello che più ci preoccupa è che tutto questo, c'era un autobus di persone sane che stavano zitte, e da lì è nata Le vie dell'obbedienza. Allora, dal prossimo album degli Scasso, Il paese degli orrori, questa è Le vie dell'obbedienza. Votante come l'acqua. attraverso l'anima che gelida risponde, mentre la mente incanta inerme. Siamo nudi, le vie dell'obbedienza. E tra i vapori di ciò che abbiamo fatto, in una società sotto macerie e asfalto, esitano inermi le anime di stato, tra chi di tutto questo mi ha fatto odio incanto, come senza alcun passato, come se nulla ci avesse insegnato. Eccoci a contare i lividi inquietanti analisi. Le vie dell'obbedienza. Commessa tutto, non fosse mai stato, aggiungeremo pure un altro pizzico d'odio, giusto quel tanto per spargere fuoco tra le danze di un popolo inerme. Danza felice tra petali e fiamme. In tutto questo io vi affronto e dedico a voi il mio fermento, tanto noi si va avanti lo stesso. Mille esitazioni tra secondi e anni generano errori da millenni, nello stupore di una rabbia appagata percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. Mille esitazioni tra secondi e anni generano errori da millenni, nello stupore di una rabbia appagata percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. Che poi a me, sentendo questo testo, mi viene in mente Cuccini, generazioni senza nome che urlavano vendetta. Grande, grandissimo riferimento, grazie. Senti, va bene, qua ci siamo ascoltati il vostro singolo, ci siamo ascoltati un'anteprima dal prossimo album. A questo punto ve vedo pronti tutti e tre con gli strumenti, tutti sorridenti. E ci siamo. Fateci sentire qualcosa dal repertorio Scasso Live. Che cosa ci suonate? Noi abbiamo portato una pantera oggi con noi, allora via, Baghera. Dai, yeah. Baghera. Esco di casa la mattina, un po' affrontare la giungla cittadina, armato de pazienza tra i denti. Buona giornata a tutti quanti, buona giornata agli cervelli padroni, buona giornata tranne ali bizzardoni, buona giornata a tutti quanti. Dai che finisce, andiamo ditti avanti, dai che stasera famo festa, è solo quello che c'ha in testa. Dai che stasera famo reggae party, mamma, shh, andiamo dritti avanti, abbozzano i medici, abbozzano l'ingegnere, pensa come posso io fra cofano e cantiere, abbozzano i medici, abbozzano l'ingegnere, pensa come posso io fra cofano e cantiere, ma la verità è che questa vita è una giungla e io sto baghera, ma la verità è che questa vita è una giungla e io so baghera. Zampe che fanno rumore, occhi che bevono al buio, orecchie che sentono il vento, denti taglianti come una pantera, vado fiero per la strada, libero io vado senza tempo, mentre abbozzano i medici e abbozzano l'ingegnere, pensa come posso io fra cofano e cantiere, abbozzano i medici e abbozzano l'ingegnere, pensa come posso io fra cofano e cantiere, ma la verità è che questa vita è una giungla e io so baghera, ma la verità è che questa vita è una giungla e io so baghera. Io so baghera, ma la verità è che questa vita è una giungla. Io so baghera. Baghera, yes I am. Grande, e questa era la vostra baghera che comunque... Oh, a Roma Muffin, quando l'avete fatta a Roma Muffin, la Massive è impazzita, è esplosa, veramente. Grandi. Poi pure Roma Muffin è grandiosa. Grandissima esperienza pure Roma Muffin, no? Sì, che bella, bellissima, dai. Iniziativa. Io devo dire, c'ho più l'età per fare queste cose perché ci ho messo una settimana a ripiamme. Pure noi. Sì, eppure lì insomma è stato, se volete vi raccontiamo un aneddoto anche del Roma Muffin. Dai, vai. Perché cioè, comunque sì, noi ce l'abbiamo, sempre i soliti svegli, diciamo così. Ci siamo resi conto all'ultimo che avevamo sbagliato una base che avevamo mandato a loro sulla quale dovevamo cantare. E niente, quindi abbiamo praticamente riarrangiato Baghera su una base che non era quella che avevamo pensato. Quindi abbiamo fatto una cosa raga Muffin di quelle potentissime, cattivissime, dai, quelle col synth a mazzetta. Invece noi avevamo pensato una cosetta tutta tanta reggae tranquilla, invece abbiamo fatto il delirio, sì, alla fine ci siamo divertiti. Però è uscita bene, è uscita forte. Sì, è uscita molto forte. Noi sì. Siamo proprio divertiti come io. Guarda, ogni volta che vado a Roma Muffin sono un bambino a Luna Park. Proprio, io devo dire che erano anni che non ci andavo, essere sincero. Merita tanto. I fratelli del Baracca, insomma. Sì, salutiamo la Massive di Spina City. Grandi. Senti, va bene, allora che cosa ci fate ascoltare adesso? E noi pensavamo proprio Le vie dell'obbedienza. Dai, così sentiamo live. La versione live. Sì, un po' così, sì, come dire, in version acoustic. No? Vediamo un po' che esce fuori. Dai, sì? Dai. Scasso live qua dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, la radio di chi se la sente. Le vie dell'obbedienza. Potente come la corrente di un fiume in piena imponente, sprigiona dirompente attraverso l'anima che gelida risponde, mentre la mente incanta inerme. Mi ti è situazioni da secondi anni generano errori da millenni nello stupore di una rabbia appagata. Percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. E tra i vapori di ciò che abbiamo fatto in una società sotto macerie e asfalto esitano inermi le anime di stato tra chi di tutto questo ne ha fatto odio e incanto, come senza alcun passato, come se nulla ci avesse insegnato. Eccoci a contare lividi, inquietanti analisi. Esitazioni tra secondi anni generano errori da millenni nello stupore di una rabbia appagata. Percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. Se tutto non fosse mai stato, aggiungeremo pure un altro pizzico d'odio, giusto quel tanto per spargere fuoco. E tra le danze di un popolo inerme, danza felice tra petali e fiamme. In tutto questo io vi affronto e dedico a voi il mio fermento. Tanto noi si va avanti lo stesso. Miti, esitazioni tra secondi anni generano errori da millenni nello stupore di una rabbia appagata. Percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. Miti, esitazioni tra secondi anni generano errori da millenni nello stupore di una rabbia appagata. Percorriamo nudi le vie dell'obbedienza. Yes, I am, le vie dell'obbedienza. Boom, booklet. Beh, devo dire che anche live c'ha il suo fascino, eh. Grandi, grazie, grazie. Non vedo l'ora di assistere a questo seratone a Roma di presentazione del disco. Eppure noi. Beh. Ma avrete ospiti, come la state pensando questa serata? Una serata che possiamo dire, dai, lo diciamo. Allora sì, ci saranno molti ospiti, che sono un po' tutti gli ospiti che hanno partecipato al disco, perché sul disco ci sono un sacco di ospiti. Ok. Va bene, ci diamo dai due. Che poi tra l'altro quando vai in città dei due, uno è San... in diretta per noi Sandrino. Sandrino, che il grande Sandrino, che ha partecipato con noi al disco, a tre pezzi del disco, e che speriamo sia presente alla presentazione. Poi ci sarà Resina, che ha partecipato, Resina Soul, che è una nostra amica, che ha partecipato come corista sulla chiave, e poi basta, non vi diciamo altro. No, e poi tra l'altro quando mi dicevi del concept album, insomma, ci sono tutte queste fiabe in qualche modo, sì. Io ripensavo a una delle feste di Radio Onda Rossa in cui voi eravate qua a Via dei Volsci a cantare, che mia figlia era una vostra grandissima fan, si stava là davanti tipo groupies, quasi strappandosi i capelli, che ballava, insomma, alla vostra esibizione. E noi emozionatissimi di questa cosa. Quindi comunque la vostra musica è anche presa sui bambini, come insomma d'altronde il reggae e lo ska nello specifico, perché è una musica movimentata, quindi insomma allegra per definizione, quindi ovviamente molto adatta ai bambini, quindi il connubio con le fiabe è sicuramente una cosa di per sé naturale, ecco. Beh sì, poi soprattutto perché lo è stata nel momento in cui ci siamo resi conto del percorso che stiamo un po' automaticamente prendendo, no? Baghera, Peter Pan, si sono collegati a quel punto una serie di elementi lì che hanno portato al paese degli orrori. Cioè, raccontare attraverso storie è stato proprio... Sì, che poi tra l'altro Baghera, per uno della mia generazione che ha partecipato alla Pantera, ovviamente mi riporta automaticamente a quella Pantera. Esatto, e questo è il chiaro riferimento quando noi la suoniamo, che diciamo, no? Noi, esiste un chiaro riferimento quando... Certo, cioè, ovviamente. Baghera è stato comunque l'espressione, cioè per noi Baghera è l'espressione di una forza, di quella mamma Roma che resiste e che lotta. Nel momento, diciamole queste due parole, nel momento in cui è stata scritta avevamo un comune commissariato, 14 lettere sgombri sui centri sociali, c'era tutto un clima di assoluta incertezza e altro che forza. Non è poi troppo e diciamo in quel no affatto, cioè diciamo che in quel momento ci voleva non solo la pazienza ma soprattutto la forza, no? La resistenza. Esatto, esatto. Va bene, allora adesso cosa ci fate sentire? Dite? Dici, dai. Avete ancora 20 minuti, quindi mettetevi l'anima in pace, ragazzi. Vogliamo far sentire un pezzo suonato, un pezzo. Vogliamo fare Peter Pan? Vogliamo provare a fare. Che dite? Peter Pan impegnativissimo, vai. Matteo si è spaventato su Peter Pan. Vai, sta là col suo caon, quello è un caon. Sì, che è la prima volta che io suono, Pietro. Però te riesce bene, devo dire. Te ci trovo a tuo agio. Ok. Allora, scasso style a Peter Pan. Guardare nel limbo del tempo, intento a scrutare ciò che è rimasto tra i miei errori, è tutto un disastro di cose impreviste, ma chi se ne frega, non passo il mio tempo a piangermi addosso, vorrei un mondo diverso, io posso, vorrei salvarmi da tutto questo, perché mi illudo, da Peter Pan mi vesto. Peter Pan mi vesto. Mi dicono muoviti, fai presto peso, fai una famiglia, sei l'unico adesso, la macchina, il cane, il mutuo e il collasso, sta cazzo di vita la butto nel cesso. Metto in gioco me stesso, sfido chiunque con sorriso beffardo, sorrido al mondo, sorrido a tutti, sorrido al mondo, da Peter Pan mi vesto, da Peter Pan mi vesto. Rivesto i panni di un Peter Pan onesto che raccoglie danni, forse troppo cresciuto i malanni, ma allora sei scemo ancora, da Peter Pan mi vesto, da Peter Pan mi vesto. Grandissimi, grazie. Va bene, allora vi rimane un quarto d'ora qua per deliziarci, quindi dai. Fateci qualche cosa pure di Scasso Riscasso, di Tracciolo Utopia, insomma dei vostri primi due lavori che hanno caratterizzato il vostro percorso artistico. No? Un ricchettino. Proviamo a fare il ricchettino. No. Certo. No. Mentre la Scasso Family si consulta sul da farsi, io vi ricordo che siete sempre in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Scasso Family, e io ho bisogno di te. pensare ad un mondo migliore. Ho bisogno, sai, di credere che possa cambiare. Ho bisogno di sentire il fuoco dentro al mio cuore. Non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Questa vita, questa terra ed appartengono anche a te. Non ti serve più nessuno che gestisca per te. Questa vita, questa terra ed appartengono anche a me. Non mi serve più nessuno che gestisca per me. Not the aid, not in the field. Is it the carnetine a Babylon? Not the aid, not in the field. Sì, ti canetina Babilo, non credere a chi dirà che tutto cambierà. È giunta l'ora che tu salga in catedra. Non vivi la tua vita ed in completa libertà, restando all'interno della linea che delimita. Non credere a chi dirà che tutto cambierà, è giunta l'ora che tu salga in cattedra. Non vivi la tua vita ed in completa libertà, restando all'interno della linea che delimita. Ed ho bisogno di pensare ad un mondo migliore. Ho bisogno, sai, di credere che possa cambiare. Ho bisogno di sentire il fuoco dentro al mio cuore. Non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Yes, I am, this is Caso Family, Radio Onda Rossa. Ho bisogno di te, yes, yeah. Senti, e questa da quale lavoro era tratto? Questa era tratto da Scasso e Riscasso. Va bene, quindi adesso ne dovete fare una tra Cielo ed Utopia. Dai, allora, se va più complicata la cosa. Dai, dai. Fammolo, dai. È stato spompato questa. Sempre sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa, la radio che se la, di chi se la sente. Questi sono gli Scasso live in studio. Ok, vabbè. This is Rotola, Scasso Family. Yes, I am. Rotolano in fondo all'anima le mie parole, scivolano come gocce fredde di sudore. Ora parlo al vento, ascolto in silenzio, stringo con la rabbia tra le dita la mia terra. Da tempo penso di non essere me stesso. Vago in un mondo fatto solo di possesso. Non conta ciò che hai, non conta ciò che sei. E brucia la speranza mentre infiamma l'ignoranza. E resto pietricato di me stesso. Mi chiudo, faccio ammenda e sbircio tra la folla. Mi chiedo cosa cerchi in un mondo sotto sopra. Rotoliamo tutti intorno al mondo, tondo di piombo, ferro e cemento. Rotola tutto prima di sera, qua rotola tutto, bel tempo si spera. Oh, ma per fortuna che c'è il vino che accantona le paure, me lo diceva sempre mio nonno Serafino. Ma per fortuna che c'è il vino, faremo un gran bordello, rotolo anch'io, così mi faccio un po' di largo. Grazie a queste vibration sotto la mia identità, mi libero di questa nostra cupa cecità. E guardo fisso il mondo, sicuro di affrontarlo con la logica. Non mi limito, lotto più che posso, fino allo stremo, sì, fino all'osso. Non mi limito, ma lotto più che posso, fino allo stremo, sì, fino all'osso. Oh, per fortuna che c'è il vino che accantona le paure, me lo diceva sempre un nonno Serafino. Ma per fortuna che c'è il vino, faremo un gran bordello, rotolo anch'io, così mi faccio un po' di largo. Scasso Family Radio Rossa. Oh. Va bene, allora sono le 5:10 qua a Via di Volci. Direi che rimane il tempo per un ultimo brano. Vi chiederei di fare un pezzo dal Giardino degli Orrori, un altro pezzo da farci ascoltare in anteprima. Il Giardino degli Orrori. Il paese degli il orrori. Il paese degli orrori. Il paese, io no, già stavo nel giardino dell'Eden. No, in realtà dal paese degli orrori, guarda, già visto, guarda le loro espressioni. Fammi basta, dai, guarda, espressioni, guarda, siete in diretta, guarda, vai. Dai, ecco, dai, dal paese degli orrori, ecco. No, non si può, dal paese degli orrori. Non si può, attenzione. Che faccio? Cazzuoli, dai, non lo so. Facciamo, guarda, facciamo così, dai, un pezzettino, proprio un pezzettino, vai. Del paese degli orrori proprio. Oh, andiamo un'anteprima per Radio Onda Rossa, vai. 1, 2, 3, 4. Benvenuto nel paese degli orrori, dove farete pace e gloria con gli orrori. E benvenuto questa esperienza drastica, dove anche il cielo diventerà di plastica. Yes, I am! Grandissimi, allora aspettiamo ansiosi la serata di presentazione del vostro prossimo lavoro, che sarà l'anno prossimo. È in arrivo, è in arrivo. Febbraio 2018, arriviamo. Dai, bombo, dai, dai, dai, dai. E allora ricordiamo anche che c'è un gruppo storico che verrà qua in città, un gruppo di ska, una formazione newyorkese, New York Ska Jazz Ensemble, che saranno in città il 23 dicembre, quindi proprio sotto Natale, quindi esatto, esatto. Vi consigliamo, ci saremo. Fanno parte di quella formazione ska che veramente hanno fatto la storia, no? Non proprio come gli Skata Lights, però insomma. Sì, diciamo che poi sono stati la piena modulazione verso il jazz, cioè non so, la consacrazione, no, del jazz verso dello ska verso il jazz. Ne hanno proprio grandissimi musicisti, quelli del loro gruppo, e quando si sono messi insieme l'intento era proprio questo: convogliare, mentre negli Skata Lights era un po' naturale perché provenivano proprio dall'educazione musicale di ogni musicista. Però anche lì c'era molto jazz, ricordo Tommy McCook, Alfonso, perché era proprio faceva parte proprio della struttura, cioè, esatto, musicale da cui provenivano. Sì, musicale. E qui un po' il percorso era molto simile, solo era un po' più attuale, con un jazz un po' più moderno, e ne esce fuori una combinazione esplosiva. Li consigliamo, quindi? La voglia. Certo. E vi consigliamo anche Giappo Collier, che sarà qui in città lunedì prossimo. Anche lui un artista one man show, insomma, suona un po' tutto, e anche quello veramente ve lo consigliamo. Abbiamo ospiti anche giovedì prossimo, Pietro? Sì, abbiamo ospiti pure giovedì prossimo, ci scambiamo di genere assolutamente. Una ragazza che è già venuta a trovarci altre volte, parliamo di Silvia Barba. Silvia Manco, Madonna Santa, ma io oggi non ce la posso fare, raga. Però tra l'altro verrà accompagnata. Verrà accompagnata da un bassista. Ma viene col contrabbasso? Probabilmente, ora vediamo se ma basso ci passa nelle scale della radio. Ce la faremo, dai, ce la faremo. E lei è già venuta a luglio e farà una trasmissione dedicata al Natale, quindi insomma saremo verso il 21 dicembre, quindi mi sembra pienamente a in tema. In tema, assolutamente, tema natalizio. Va bene, poi tra l'altro noi ci saremo durante le feste, tu ci sei? Ci saremo. Non stai in Polinesia? No, ho rinviato. Ah, ok, va bene. Allora, quindi ci trovate sempre qua sulle frequenze di 87.9 a Via dei Volsci, San Lorenzo, come vi sbagliate. Ovviamente vi esortiamo a venirci a trovare per venirvi a prendere la scarceranda. Non mancate, quest'anno è più bella dell'anno scorso e l'anno prossimo sarà ancora più bella. Ovviamente, come ogni anno, ci sta da godersela tutta quanta. Insomma, non vi fate trovare con le solite agendine scamuffe, quelle commerciali, perché la scarceranda ce n'è una al mondo ed è quella che trovate qua a Via dei Volsci. Quindi, che dirvi, mancano pochi minuti alla fine. A proposito, Simone, visto che stai qua con la chitarra, improvvisi, lo chiediamo spesso ai nostri ospiti, ci improvvisi un cingoletto così su due piedi per Attica Blues, così noi poi ce lo rivendiamo. Eccola, arriva Marta, dai! Ecco Martuzza. Certo, come il prezzemolino. Come l'erba cattiva, mi sono tanto piena. No, perché gli scasso, oltre a fare tanti dischi, tanti che ormai il lead vocal non si ricorda, no, scherzo, giustamente deve andare a ripescare in quella che comincia a essere, insomma, una certa discografia. Poi c'è un extra che hanno fatto solo per noi, lo devo dire, perché tra i jingle che avete sentito il compleanno della radio, gli scasso hanno fatto un jingolino dei 40 anni de loro. Cioè, uno gli ha detto, vabbè, se vi va di fare, dagli scasso tanti auguri, perché uno non gli voleva collare niente, invece si sono messi in saletta. Mo io adesso non lo so se la volete rifare oppure no, però mi sembrava questa cosa carino sottolinearla. Eh sì, no? Facciamo un regalo, ci hanno fatto un bel regalo dei 40 anni. No, era, no, infatti, ma non era. L'avamo messo in mezzo. Questo è quello dell'ultimo bagno. Fatecelo voi a noi in gingoletto, no? No, infatti, perché era un cingolino improvvisato ma de core, in cui a un certo punto si sopava auguri Onda Rossa, appunto Simone che raccontava chi è la radio, che si può trovare, perché io credo che da qualche parte, anzi credo che sia anche sul sito della radio, perché abbiamo messo un po' di cingolini, però così era per dirlo, non era per metterli nelle peste, insomma, quindi poi suonate un po' quelli che volete. No, ma infatti io gli stavo chiedendo se ci improvvisavano un cingoletto di 10 secondi per Attica Blues, così su due piedi. Come nome, figurati. E dai, il carosello. Interrogazione, come sorpresa. Ma ho detto che spiegavo, invece interrogo. Dimmi te che lo fa. Una nuova età. Allora, vedi la cosa, però. Però ci è mancata la voce. No, dovevamo fare una cosetta strumentale, visto che è carina invece. Vabbè, va. Sei meno. Grande. Va bene, allora ragazzi, grazie tantissimo di esserci venuti a trovare. Vi aspettiamo sicuramente quando esce il disco per ascoltarlo insieme per una nuova trasmissione. Questa volta non vi spremeremo a fare il live, non vi preoccupate, non abuseremo di voi nuovamente. Sarà un piacere. Dai, sicuramente ci rivedremo, insomma, ci rivedremo alla serata di presentazione, sicuramente verremo a trovarvi. E dai, grazie ancora. Attica Blues finisce qua, adesso rimanete sintonizzati perché comincia la Schiena del Soul. Ma dai, è già presente negli studi della radio, quindi attenzione. Dai, noi ci sentiamo giovedì prossimo con Silvia Manco qua negli studi di Radio Onda Rossa, e bella lì, grazie agli scasso e alla Scasso Family. Grazie a voi, ciao. Ciao.